9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon martedì 5 aprile da Oscar Giannino, che subito introduce il tema della giornata. Come ho detto nel lancio della trasmissione, ieri abbiamo letto l'editoriale in prima pagina del Corriere della Sera, era firmato da Ernesto Galli della Loggia, e abbiamo deciso di porre esattamente agli ospiti e a voi tutti a casa la stessa domanda che poneva Ernesto Galli della Loggia ieri in apertura alla prima pagina del Corriere della Sera. Quindi fateci sapere la vostra opinione, chiamate il numero verde 800 24 00 24, ricordo il numero dei messaggi 349 238 6666. Mi tirano giustamente le orecchie perché io non ricordo mai i numeri. Questi sono i numeri a cui farci avere la vostra opinione. Che cosa scriveva ieri Ernesto Galli della Loggia? Lo ricordo. In buona sostanza, in poche righe, tento di sintetizzare ciò che diceva. Il titolo era Lega di lotta, non di governo. Iniziava il suo editoriale affermando: la crisi della leadership berlusconiana a stento riesce a mascherare un'altra crisi che sta esplodendo in questi giorni, la crisi della Lega. E la crisi, che è raffigurata come meglio non si potrebbe dalla foto di quella rete del campo profughi di Manduria, semiabbattuta e superata ad un balzo da centinaia di tunisini poi dispersi nei dintorni. Con incisività perentoria delle immagini, essa mostra l'impotenza di un ministro leghista dell'interno, Maroni, che, molto bravo ad arrestare mafiosi e camorristi, non sa invece che pesci pigliare proprio sul tema forse più caro alla propaganda e all'ideologia del suo partito, quello dell'immigrazione. Bossi ha un bel dire agli immigrati fuori dalle palle, il suo ministro non è capace neppure di trattenerli dietro una rete. Non dico neppure, naturalmente, di respingerli in mare lasciandoli al loro destino, così come invece, ascoltando le grida di Bossi, qualche ingenuo e feroce leghista forse si è immaginato che potesse accadere. Ma evidentemente un conto sono i comizi a Pontida, un altro conto fare seguire alle parole i fatti. E dopo questa bella premessa, che come si vede non risparmia polemiche, perché la mia opinione è che rispetto alle posizioni della Lega in questi anni Maroni si sia adoperato in maniera molto responsabile nel tentativo di mettere in piedi un accordo con le regioni, con le città, poi si è capito che tutti dicono sì, nessuno li vuole, poi noi stessi facemmo la trasmissione quando fu evidente il primo giorno delle proteste di Manduria, quando si dimise Mantovano, che c'era un contrasto di fondo tra chi a livello locale diceva il modello dispersione e chi invece a livello nazionale proponeva che Lampedusa fosse risolta ma tenendo concentrati i gruppi per evitarne il dissolversi all'interno del territorio italiano. Però mi sembra che tutto questo Maroni non abbia fatto il propagandista, e tantomeno che il no e i problemi della dispersione di un accoglimento che tutti dicono essere imperativo per l'Italia per obbligo umanitario dipendono dal ministro. Però questa è la mia opinione. Ma dopo questa premessa Ernesto Galli della Loggia andava al nocciolo pesante del suo, della sua riflessione. E continuava così: la verità è che quanto accade in questi giorni sta mostrando l'impossibilità, incapacità della Lega ad essere un vero partito di governo. Con l'ideologia leghista si può essere ottimi sindaci di Varese e perfino di Verona, ma non si riesce a governare l'Italia, non si riesce, cioè, continuava, a pensare davvero ai problemi del paese in quanto tale, non solo nella sua interezza, ma anche nella complessità dei suoi rapporti internazionali, e tantomeno immaginarne delle soluzioni. Con l'ideologia leghista al massimo si può stare al governo, che però è cosa del tutto diversa dal governare. Si può al massimo, cioè, essere alleati gregari di una forza maggiore e occupare dei posti, ma al solo scopo, in sostanza, di chiedere mance e favori per i propri territori. Chiacchiere, essere a chiacchiere contro Roma ladrona, poi essere condannati a comportarsi nei fatti come un tipico partito di sottogoverno. Allora, siccome i giudizi qua sono pesanti, sono giudizi irrevocabili, aperta naturalmente con voi a casa, sentiremo come ne pensate, l'impressione se questo sia il modo per fare, per così dire, più male alla vita residua del governo, picchiare la Lega per dire se ti sfili e fai polemica così il governo finisce definitivamente prima. È una strategia, anche Bersani la segue in questi giorni e ha spostato il suo focus dagli attacchi a Berlusconi agli attacchi alla Lega e a Bossi, dicendo stai col miliardario, e posso capire, per così dire, che questa possa essere una strategia per chi legittimamente ritiene che la vita di questo governo debba finire al più presto. Però la domanda e l'interrogativo che mi pongo io è: davvero da un anno e mezzo a questa parte, da che rispetto all'inizio dell'anno scorso il governo ha iniziato ad andare giù per i problemi della giustizia, i problemi di Ruby, il riprendere degli altri processi dopo il venir meno della strategia di difesa personale del Premier, davvero il problema di questa delusione progressiva del centrodestra al governo e la Lega come forza di governo intollerabile, o i problemi maggiori stanno altrimenti detti e hanno un altro nome e cognome e sono le barzellette al di fuori del bene e del male, il fatto che si sovrappone a Maroni il Premier andando lui stesso a Lampedusa promettendo casinò e promettendo di acquistare case, non lo so, io ve lo chiedo, può essere pure che sia io che sbaglio a vedere che la Lega anzi si comporta con responsabilità, fin troppa forse, di fronte a tutto questo accadimento quotidiano che supera talvolta le soglie del gusto, ecco, poi del giudizio politico, non, ciascuno al suo. Però la mia impressione è che questo giudizio fotografi un pezzo della realtà che non mi sembra il più rilevante. Il più rilevante probabilmente, dal mio punto di vista, ma una volta che l'ho dichiarato mi taccio, è che Berlusconi è entrato da tempo in una fase incompatibilità ambientale con se stesso in quanto personaggio pubblico. Ecco, io la metto un po' così. Però può essere invece che anche quello che avviene in questi giorni vi faccia pensare che il problema dell'immigrazione sia il problema della Lega. Vengo anche al punto del giorno, lo ricordo, lo troverete sulle cronache. La Lega ieri ha presentato, per esempio, una proposta che viene oggi tutti i giornali presentata come gli eserciti regionali, è una proposta di legge che è stata firmata dal capogruppo in commissione difesa Franco Gidoni della Lega e da alcuni deputati del Carroccio, ma non dal capogruppo leghista Montecitorio Marco Reguzzoni, che ha comunque detto di condividere la posizione, e questa proposta propone l'istituzione di un corpo di volontari militari per la mobilitazione di cui entrerebbero a far parte, domanda e previo superamento di esami psicoattitudinali, militari cessati dal servizio senza demerito, volontari in forma prefissata di età inferiore a 40 anni, quindi delle milizie regionali sullo schema della Guardia Nazionale americana. Questa proposta ha ieri immediatamente irritato il ministro della difesa Ignazio La Russa, dicendo che la Lega non può pensare di fare secessioni all'interno della difesa nazionale, no alla parcellizzazione. Anche questa è una proposta scandalosa, oppure altrove, in altri modelli, in altri paesi, con questo sistema si danno risposte dalla protezione civile alle emergenze immediate e anche poi a forme di supporto alle forze armate nazionali quando non bastano per l'impegno che hanno dato buona prova di sé. Francamente mi sembra più questa seconda cosa della prima, però io non continuo perché altrimenti voi mi dite che divento troppo filoleghista, ma non è questione di essere filoleghista, mi stupisce che anche in questo caso è La Russa che ha detto qualcosa di troppo al Presidente della Camera, che ha fatto male al suo governo e alla sua maggioranza, o è stato qualche leghista? Non lo so, può essere che mi sbaglia io. Allora, gli ospiti di oggi, per capire, noi abbiamo insieme a noi Francesco Speroni, che è deputato europeo della Lega Nord. Buongiorno Speroni. Buongiorno a voi. Ecco, al quale naturalmente affido il compito di rispondere invece alle riflessioni, gli attacchi che gli verranno dagli altri due ospiti, che sono i colleghi giornalisti, innanzitutto Marco De Marco, che è il direttore del Corriere del Mezzogiorno ed è autore del libro Terronismo, perché l'orgoglio sudista e il pregiudizio nordista stanno spaccando l'Italia in due. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno. E Mario Secchi, il direttore del Tempo, buongiorno anche buongiorno. A lei, buongiorno. Buongiorno. Allora, De Marco, non solo per difendere il gruppo editoriale, ma insomma nel merito, a lei sembra che effettivamente l'incapacità, impossibilità, questi sono i due termini, della Lega di diventare un partito di governo responsabile, misurato, che sia capace anche di misurarsi con fenomeni come quelli che vediamo dalla Tunisia nel nostro paese in questi giorni, sia veramente un fatto conclamato, uno dei punti maggiori acquisiti in questi anni di centrodestra? Però mi spiego, mi spiego velocemente. Il problema è che il Galli della Loggia, quando pone il problema della Lega, non assolve Berlusconi. Questo ragionamento di Galli della Loggia segue altri ragionamenti e mi pare di capire che il suo giudizio. Corretto. Ecco, ci mancherebbe. E appunto. quindi sicuramente il punto di maggiore crisi non è la Lega, ma è tutto un sistema in cui c'è anche proprio uno stile di governo che non piace più. Per quanto riguarda la Lega, Galli della Loggia secondo me pone due questioni. La prima, appunto, c'è un problema quando dagli interessi più locali e nazionali ci si pone in una dimensione più internazionale. E quindi il problema che pone è questo: il sindacalismo territoriale, di cui la Lega secondo me è un'ottima rappresentazione, il sindacalismo territoriale può essere un sistema per governare un intero paese e un intero paese in conflitto con interessi sempre più globali? È lo stesso problema che si pone per altri versi anche Tremonti quando dice che bisogna darsi una struttura economica più forte e via dicendo. Quindi questo è il vero problema che pone Galli della Loggia, e credo che il problema sia legittimo. Nella risposta che lui dà io ci trovo un eccesso, diciamo, di critica alla Lega, perché mi pongo questa questione. Bene, la Lega è un partito territoriale, però da quale altro partito nazionale sono venute negli ultimi 20 anni proposte che riguardano la struttura dello Stato italiano? Cioè, il federalismo è una proposta che è venuta dalla Lega. La sinistra, che critica questa proposta, non ne ha messo in campo una migliore, e quindi finché non c'è una proposta migliore io starei attento, diciamo, a demolire una delle poche forze che in qualche modo si è posto anche il problema di come uscire dalla crisi dell'Italia. Allora, tanto De Marco concede una bella attenuante, per così dire. Sentiamo Secchi, diciamo un'anima più vicina, ancora più vicina al centrodestra, ma sempre incentrata su Roma, spesso polemica contro gli eccessi del nordismo. Dal suo punto di vista? Beh, caro Oscar, ti sorprenderò, perché se la Lega non ci fosse bisognerebbe inventarla. Provo a spiegare anche perché, diciamo che mi ha arrabbiato a spiegare. Allora, dunque, se non ci fosse bisognerebbe inventarla perché, come dice giustamente De Marco, ha messo sull'agenda politica al primo punto delle riforme. Possono piacere o meno, ma è così, è l'unico partito che ha dato una spinta riformatrice reale sull'organizzazione dello Stato, quindi questa è una cosa importante. B, ha il merito di aver sollevato quella che l'Umberto Bossi della prima ora, che io ricordo benissimo, diceva forse la questione socio-economica del Nord, no? La questione settentrionale. C, ha comunque in ogni caso rivitalizzato l'idea delle autonomie, del regionalismo, eccetera, e il suo avvento, se mi consenti Oscar, ha anche fatto un'altra cosa, e cioè ha introdotto il tema della responsabilizzazione della classe politica dal livello più basso al livello più alto, soprattutto in termini di buona amministrazione e controllo della spesa. Ora, detto tutto questo, e quindi dato atto che questo è un movimento interessantissimo, che bisogna che ci sia, mi chiedo come mai non riesca a fare il salto di istituzionalizzarsi. Dove per istituzionalizzarsi che cosa identifichi? Ma ti faccio un esempio, ma perché si è arrivati a un accordo, spero sia confermato oggi, sul permesso temporaneo dopo giorni e giorni di politica che diceva fuori di Bal? No? Era chiarissimo fin dal primo momento che questo doveva essere il passaggio giusto, cioè il permesso temporaneo per sminare tutto e costringere gli altri paesi europei a prendere atto di una situazione da condividere per tutti. Cioè, voglio dire, la Lega è un movimento che ha le personalità che capiscono queste cose e non avrebbe nessun bisogno di alzare né la voce né di fare slogan e così via, perché è credibile in una certa maniera. Là. Ci sono tanti altri esempi di questo tipo che si possono fare. Quando ancora insistono sulla retorica, per esempio, di Roma ladrona, che io combatto perché non è così, e ne ho testimonianza tutti i giorni, non fanno un buon servizio al loro partito. Poi Speroni adesso mi dirà, no, guardi, non è così, eccetera. Però in realtà, cioè, io mi aspetterei della Lega quello di diventare classe dirigente in toto, in tutto e per tutto, e addirittura di fare un secondo step della sua storia, prendendosi carico anche del Sud. perché qua altrimenti non ci tripa per gatti sul Mezzogiorno, questa è la verità. Va bene, anche se devo dire la verità, come il termine che usava De Marco, cioè il sindacalismo territoriale, per così dire, si vede parti del sud che magari anche dall'altra parte lo schieramento politico è un pochino lo schema che tenta. Penso per esempio alla posizione di Emiliano, il sindaco di Bari, mi pare di capire che sia una cosa con non minori eccessi, butad, semplificazioni culturali, politiche istituzionali, di quelle attraverso la quale la Lega poi è riuscita in realtà a fare che? A proporre uno schema di fronte al quale, anche lì invito a riflettere, in Parlamento sui decreti attuativi Calderoli è diventato l'interlocutore al quale il PD e le autonomie riconoscono il fatto di essere pronto a riaprire i tavoli pur di mettersi d'accordo e trovare un accordo. Sono io che lo critico perché dico che sono accordi che stanno anacquando troppo il federalismo, ma invece lui è pronto a farlo. Per questo sul decreto regionale si è tenuto l'accordo e probabilmente si rimette mano anche a quello comunale. Comunque, queste sono le mie osservazioni. Che non vuole difendere la Lega? Io credo che la delusione del centrodestra si chiami Berlusconi. Questo per essere chiari, è la promessa di abbassare le tasse e la spesa non mantenuta. Di fronte a questo mi pare che la Lega, alla prova dei fatti, io non credo che sia irresponsabile. Però sentiamo Speroni come risponde all'obiezione di Secchi e De Marco. Io più che Secchi e De Marco, anche perché sostanzialmente non sono tanto critici nei confronti della Lega, a Galli della Loggia. A Galli della Loggia o alla Russa. Cominciamo a dire che questo fatto per cui dell'esercito, meglio di una guardia nazionale territoriale, in altre realtà, cominciare dagli Stati Uniti, esiste. Se ricordo bene, il presidente Bush, W. Bush, il secondo, è stato ufficiale, ha prestato il servizio militare che allora mi pare fosse obbligatorio proprio nella Guardia Nazionale del Texas come ufficiale d'aviazione, quindi è una realtà che c'è, poi dopo si può vedere se è applicabile o meno, ma una forza politica presente in Parlamento è libera di presentare delle proposte che non sono certo né avversive né secessioniste, ma semplicemente con una visione che magari giustamente si può non condividere, perché non tutto ovviamente è condivisibile, però è altrettanto lecito presentarle. Quanto a Galli della Loggia, secondo me ha una concezione un po' strana della politica e soprattutto del governo. Il governo innanzitutto, ricordo, è un organo collegiale, quindi vale a dire non è che ogni ministro ha il suo feudo e fa quello che vuole. Il ministro Maroni ha la responsabilità dell'interno, però agisce nell'ambito della politica dell'intero governo. E oltre che tener conto delle linee direttrici dell'azione di governo, deve tener conto anche delle norme italiane che non può certo violare, può proporre di modificarle, ma per il momento quelle sono, delle norme europee e del diritto internazionale, a cominciare in questo caso dalla Convenzione di Dublino e dalla Convenzione di Ginevra, per cui non può agire come ti pare e piace o come magari vorrei io. Io sono uno che concorda benissimo col Fred di Ball, però il Fred di Ball non è che si può sparare ai barconi, si potrebbero forse riaccompagnare tenendo conto anche qui altre norme internazionali, la Convenzione di Montego Bay che non permette di portare in giro dei natanti se non sono in sicurezza come i barconi, finché vanno loro possono fare, non dico quello che vogliono, ma lo fanno di fatto, però quando vengono presi in carico, che so io, dalla Marina Militare, dalla Guardia di Finanza, dalle motovedette di Carabinieri e Polizia, beh, questi sono tenuti a rispettare appunto la Convenzione di Montego Bay e quindi ci sono tante di quelle norme, per cui non è che la Lega non è capace di governare, magari è vincolata da alcune norme che comunque vanno rispettate. Questo è quello che sta facendo Maroni. Poi vediamo questo accordo che si sta concludendo a Tunisi, che aspetti avrà. Voglio dire, aggiungo da ultimo, l'assenza totale dell'Europa, proprio qui al Parlamento europeo ieri sera abbiamo discusso e la commissaria Malmström ha detto finché gli stati non collaborano io non posso farci niente, questa è la sostanza del suo intervento. Quindi è l'Europa che manca assolutamente. Io invito anche chi è a casa riflette e mi manda messaggi durissimi: sei diventato leghista, venduto da servo di Berlusconi a servo della Lega. Mi permetto di sorridere, semplicemente perché nella gestione complessiva della faccenda immigrati dalla Tunisia, cui prendiamo schiaffi, perché di questo si tratta, sia dal neogoverno di Tunisi che tutti i giorni dal governo francese, io invito tutti a riflettere. L'Italia è il paese europeo più spaccato all'interno, con tutte le sere, trasmissioni, talk. Voi aprite, trovate esponenti dell'opposizione che su questo dicono che la colpa è del governo italiano. Naturalmente la risposta è del governo italiano, che la colpa non è sua. Risultato: uccidendoci politicamente, tribalmente, siamo diventati il paese in cui anche il neo arrivato governo di transizione tunisino capisce che si può abilmente fare, diciamo così, circonvenzione di incapace del nostro paese, che se le prende da tutti e incassa la gestione di un problema che tutti quanti in Europa dicono vedetevela voi, e riusciamo a dividerci su questo. E mi dispiace, potete pensare che il problema sia della Lega, io penso che il problema sia più complessivo, perché la Lega ha posto un problema che è quello dell'impossibilità di essere gli unici che assorbono tutti. Questo fatto sta nei numeri dell'economia, per di più negli anni, non era così tanti anni fa, negli anni. Adesso Speroni dice: ma noi operiamo nel rispetto delle cose internazionali. Detto questo, che il paese sia ridotto a non avere una linea credibile e che si assassini nel dibattito pubblico ciascuno contro gli altri, la domanda è: dipende da Umberto Bossi? Dipende dal ministro Maroni? Dipende dal ministro Calderoli? Bah, io non ne sono convinto. Vedremo dopo l'interruzione pubblicitaria come la pensate voi. Eccoci tornati in studio. Riprendiamo un secondo da Marco De Marco. Andiamo al punto della polemica poi più forte, più tradizionale, più giustificata ancora rispetto a quella dell'immigrazione e del profilo di governo, quello tra nord e sud. Dovendo fare un bilancio complessivo dell'evoluzione che ha avuto la Lega, che è diventato poi il pilastro vero anche nella crisi del centrodestra, senza Lega di fronte alla riesplosione dell'emergenza giudiziaria Berlusconi sarebbe a fondo, come è evidente. Ma di fronte a questo, nel bilancio complessivo del nord e sud, dirigendo un giornale del sud equilibrato, tuttavia non sulle posizioni oltranziste, diciamo così, di revisionismo storico, per così dire, nel 150esimo, però la sua impressione è che la Lega abbia costituito un elemento aggiuntivo di attenzione o un elemento oggettivo di spostamento di fondi a favore del nord, come molti eletti nel sud, sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, l'accusano di fatto di essere riuscita a fare tramite Tremonti, sui fondi FAS e così via, De Marco? Io credo che la Lega sia riuscita a fare bene il suo mestiere, che è appunto quello di sindacalista del territorio nordista. E dico anche di più, dico appunto che ha avuto un merito, quello di coniugare forse per la prima volta in Italia il populismo con il riformismo. Noi abbiamo sempre avuto un riformismo senza popolo. Elitario. Elitario, esatto. Oppure un populismo senza riforme. Oggi con la Lega noi riusciamo a unificare queste due cose, e questa secondo me è la strada più bella che la Lega ha aperto. Dopodiché, anche per fare un po' la parte del diavolo, dopodiché dov'è che la Lega secondo me cade? Cade per esempio quando, in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia, la Lega assume posizioni che sono simili a quelle neoborbonici, cioè si guarda alle spalle. Io non capisco perché la Lega debba avere questo complesso nei confronti dello Stato italiano e debba avere nostalgia per una Italia pre-risorgimentale, esattamente come i neoborbonici. La Lega addirittura esalta l'epopea del brigantaggio, esattamente come i neoborbonici. Allora, un partito che è in qualche modo un partito moderno, sicuramente è il partito più nuovo, più moderno che c'è in Italia, perché di fronte a queste vicende simboliche assume qualche cosa di retro, di che guarda alle spalle. Questo secondo me è proprio sbagliato e crea l'alibi per una discussione sulla Lega che è tutta, diciamo, sulla forma, sui simboli e non sulla sostanza. Un altro esempio: l'esercito regionale in sé ha ragione Speroni, eserciti regionali esistono dovunque, se ne potrebbero fare anche di più, si potrebbe fare un esercito per esempio per il turismo, si potrebbero fare eserciti per il diciamo per mille altri problemi, ma agitarlo oggi con una velleità che secondo me non ha proprio alcun senso. Pensiamo alla proposta delle ronde, com'era, le ronde per la sicurezza. è un progetto buttato lì senza un'idea. Allora la Lega alcune cose le mette sul piatto per fare fumo, ecco, questa Lega a me non piace, così come non piace la Lega che per esempio pone il problema di concentrare tutti gli immigrati nelle regioni meridionali. Anche quello è, capisco il realismo, in Italia ci vuole un partito che usi le categorie del realismo, però di fronte a una vicenda di questo tipo, ecco, un po' più di solidarietà nazionale non avrebbe guastato. Allora, qualche telefonata con gli ascoltatori. Cominciamo con Pietro che chiama da Firenze. Prego Pietro. Sì, buongiorno. No, io l'ho chiamato prima, ora non sono più alla radio, non ho sentito le ultime interventi. Ma intanto ci dica lei su Da Galli della Loggia, se è d'accordo. È molto semplice, vado veloce per lasciare spazio agli altri, anche se è un argomento che ci vorrebbe delle ore. Allora, quello che dico io è che quello che sta succedendo alla Lega è una cosa oggettiva, che non ci possono fare niente, non dipende dai politici che sono ora a capo dell'organizzazione del movimento, perché è quello che è successo in modi diversi ovviamente all'altro partito di massa a quei tempi, il Partito Comunista, quando poi è diventato da partito di opposizione a partito di governo. Cioè chi vota quei partiti non si rende conto, per un problema di educazione, che questo è un problema poi che bisognerebbe far imparare la bambina alle scuole, ma è un altro argomento. Che per governare bisogna cambiare metodo e linguaggio rispetto a quando si fa solo lotta e opposizione. Non è solo metodo e linguaggio, è che quando diventi partito di governo i suoi interessi di parte, per la tua parte, devono diventare interessi di tutti. Sì. E per cui prima era sul Partito Comunista, è successo per la parte, chiamiamola parte, che non era così, ma insomma i cosiddetti, la cosiddetta classe operaia, ora no, sta diventando per la parte di un territorio. La Lega rappresenta un territorio, quando quel territorio non è più nazionale perdono il contatto con... Bene, queste tesi di Pietro, rapidissimo flash. La CSU, cioè la parte del movimento cristiano impegnato in politica moderato del centrodestra, è sempre stata solo bavarese. E in questo fa leader di provenienza bavarese, fa rappresentanza della Baviera, e tradizionalmente uno dei punti storici forti, tant'è che c'è il resto della DC, si chiama CDU ed è una cosa federale. Anche questo non c'è in altri paesi, è una caratteristica solo italiana? No. Però, vabbè, osservazione mia. Laura, che chiama da Udine. Prego, Laura. Buongiorno, signor Oscar. Dunque, buongiorno a tutti. Prego. Naturalmente. Sarò breve, perché bisogna anche. Ieri sera ho sentito Magnaschi, che è direttore di Italia Oggi, sì, che è un uomo molto intelligente, sì, ha detto i tunisini scappano e forse la Lega la pensa come Magnaschi, mi domando io. Che scappino pure, non ci costano niente, nascondono i loro documenti e cercheranno di raggiungere i parenti. Sì. Questa è l'opinione del signor Magnaschi, che io ci sto pensando. Inoltre, io voglio dire questo, se ci fosse una vera opposizione, anche la Lega avrebbe fatto di più. Guarda che io non sono con la Lega, anche perché abitavo con Eliano e mi faceva paura tanti anni fa la Lega. Sì. Adesso non mi fa più paura, anche perché c'è Tremonti, che è un uomo molto intelligente. Sì. Ecco. Ma e poi non le fa dire... più paura, Laura, perché si è evoluta, no, secondo lei? Sì, si è evoluta, era rozza, era... ma ha degli uomini abbastanza capaci, sì, secondo il mio punto di vista. Però io mi chiedo anche questo, se l'opposizione fosse stata all'altezza della sua situazione, sì, in questi momenti così critici, economia e adesso questi sbarchi, per me l'opposizione perde. Ah, lei dice l'opposizione, il problema è lontano, prima ancora della Lega che si è voluta c'è un problema di opposizione che non, l'opposizione che non è all'altezza. Non è stata all'altezza, non ha trovato idee, non ha aiutato, ha boicottato. Chiarissima Laura, chiarissima. Sentiamo ancora rapidamente Enzo da Bergamo, prego Enzo. Buongiorno, saluto a tutti. Premetto che io sono di sinistra e anche meridionale. Chiamo per dire che non sono d'accordo con Ernesto Della Loggia, perché secondo me la Lega invece contribuisce molto attivamente alla soluzione dei problemi. Non è vero che si sente irresponsabile o qualcosa. Batte esprime i suoi uomini migliori in campo del governo e anche a livello politico. Per cui non sono d'accordo, volevo solo dire questo. Ah, e lo dice della sinistra meridionale. Io adesso lei mi peggiora la situazione, perché tutti penseranno come al solito che le scegliamo. Noi non le scegliamo le telefonate, adesso vedremo le prossime che mandiamo in onda come sono. Chiedo un commento rapido a Secchi, la tua impressione è che quanto dura la responsabilità residua per tenere in piedi Berlusconi e quando stacca la spina come se la Lega? Allora, la tua annotazione è più che corretta, l'asse, il baricentro di tutto è la Lega, non ci sono dubbi. Io non so se però staccherà la spina, perché vedi, si è arrivate varie volte a momenti di tensione e anche vicini alla fine dell'avventura. Però alla fine ha sempre prevalso un certo pragmatismo che io apprezzo molto nella Lega, cioè di dire, ma qual è l'alternativa? Non c'è l'alternativa. E allora è inutile andare all'avventura, piuttosto continuiamo a cercare di mantenere in piedi la baracca e di migliorarne un po' le fondamenta. È quello che dovrebbe essere successo, ripeto, anche ieri sera, no? Cioè che la Lega da una posizione finto celodurista, diciamo così, delle origini, è invece arrivata a una soluzione che, ripeto, se la confermano è intelligente, ed è l'unica anche possibile in termini di gestione degli immigrati. Quindi la Lega è certamente un pungolo, spesso un problema, ma è insostituibile. Bene, questo è un dato. Bene, quindi dici che insomma in realtà nel tira e molla prevarrà poi alla fine non staccarla la spina. Io mi chiedo, perché non so che cosa le amministrative faranno vedere alla base elettorale, se procede, in altre parole, quel percorso che era già reso evidente l'anno scorso di un'erosione di voti rilevanti da parte del PDL nel centro-nord a favore della Lega, o se entriamo in una fase diversa in cui l'oggettiva discesa verticale, perché di questo si tratta, nei sondaggi del PDL di Berlusconi non riesca a creare un problema anche rispetto al processo di crescita della Lega che era ripreso con vigore, perché credo che quello potrebbe cambiare un po' il segno della posizione della Lega. Però vedremo, sentiamo Rosanna che chiama dalla provincia di Imperia. Prego Rosanna. Buongiorno Giannino, intanto le volevo dire che lei è molto simpatico. Vabbè, grazie. Sì, l'adoro veramente. Io sto lavorando e andiamo al punto, Rosanna, sennò allora, pensano allora, che qua chissà, io non la conosco, lo dico no, perché no, lo so. Allora, il punto è questo. La Lega è nata come un partito che avrebbe dovuto essere da moralizzatore della patria. Si è imbarcato con Berlusconi ed è sceso a patti che neanche, non lo so, col diavolo. Loro dicono che per il federalismo andrebbero anche con Satana, questo è il punto. Lo so, però non è giusto, perché per il popolo non fa niente nessuno. E cioè aumentare gli stipendi, triplicarli come è triplicato tutto il resto. Ci sono gli aumenti in generale. E la gente stufa. E Rosanna tocca un punto, però, che è quello appunto, insomma, quando dice Bersani state col miliardario, e come vedete poi un po' la gente arriva. Sentiamo ancora l'ultima, per il momento, Hamid, che dal nome direi la provenienza, non credo che sia un originario italiano, sentiremo da lui, che ci chiama da Alessandria. Prego Hamid. Buongiorno. Mi aggancio alla signora, è come il gladiatore che fa dei colpi bassi, cioè praticamente. Io ho seguito la Lega fin quando la sua nascita, i primi anni, ma devo dire che bisogna stare molto molto attenti di queste piccole avanzate della Lega. Io credo che la Lega, se potesse, negherà tante cose che Berlusconi chiedeva, ma è un compromesso tra la Lega e Berlusconi. Spero che Berlusconi non sta lì a concedere tante cose, perché siamo veramente alle come dire, questa piccola avanzata dell'esercito regionale, io secondo il mio piccolo parere, questi vogliono l'esercito del nord, ma non ne possiamo più, abbiamo appena festeggiato le 150 anni dell'unità dell'Italia, l'unificazione italiana è giovane, bisogna promuoverla, e di queste cose non ne possiamo più. Beh, vabbè, a me il suo parere è chiaro, da che paese viene e da quanto sta in Italia? Io sono marocchino, sono da 22-23 anni che sono in Italia, insomma. Però guardi, ne ho visti, io sono appassionato di politica, certo. Ho partecipato nella lotta del pane nell'82 in Marocco, capisco tutto, sono sempre nei telegiornali. No, ma per carità, ma mica ci mancherebbe altro. Però quando vedo ste cose sto male e dico, Dio santo, ma questa gente sanno che hanno il loro paese nel... ma perché vogliono fare la disfatta? Questa la disfatta, lo distruggono così. Lei pensa che sia rimasta secessionista, va benissimo. Allora, ora abbiamo il minuto sulla circolazione stradale e poi con Speroni iniziamo a dare le risposte finali. Allora, Francesco Speroni ha sentito insomma una vasta forbice di opinioni critiche alle quali però la sua risposta, inviterei anche a tenere in considerazione la domandina che ho fatto a Secchi: quanto durerà, diciamo così, la responsabilità fino al completamento dei decreti attuativi del federalismo, o c'è l'ipotesi che poi a un certo punto la Lega dica no, qui si sta esagerando, quando è troppo, noi siamo stati un pilastro centrodestra ma non è che possiamo davvero sopportare tutto, oppure è una domanda provocatoria che non esiste, il governo va avanti secondo lei senza troppi problemi? Ma direi che mancano 2 anni alla fine della legislatura e quindi, se non succedono fatti imprevisti, eccezionali, si dovrebbe proseguire con la collaborazione. E a proposito di collaborazione, ho sentito un po' di accuse, siete col miliardario, eccetera. Beh, adesso faccio una battuta, sembra che scenda in campo Montezemolo, quindi ci potrebbe essere un'altra alternativa, un altro molto ricco con cui allearsi in politica. Ma a parte le battute, teniamo presente una cosa: la Lega ha eletto alla Camera 60 deputati su 630, è chiaro, con 60 su 630, cioè meno di un decimo, da soli non si riesce a ottenere quello che è la parte fondamentale del nostro programma, che è il federalismo. E quindi ci siamo alleati, non dico col diavolo, anche se Berlusconi è molto legato al Milan, che è proprio il diavolo come simbolo, però ricordo proprio Gianfranco Miglio ha detto che pur di fare il federalismo va bene anche l'alleanza col diavolo. Quindi Berlusconi è stato un alleato ed è un alleato leale, stiamo facendo le riforme e quindi mi sembra che la collaborazione possa andare avanti finché quantomeno si fanno le riforme. Cioè, questo non voglio dire finite le riforme molliamo Berlusconi, perché penso che le riforme richiedono addirittura almeno un'altra legislatura, quindi l'alleanza è solida, i risultati si vedono. Qualcuno può dire siamo costretti a fare alleanza, è vero, e questo lo dicono i numeri. Se gli elettori ci avessero dato la maggioranza assoluta, magari le cose cambiavano, ma la realtà è appunto questa: 60 su 630. Speroni, ma secondo lei chi in questi mesi, di fronte al crescere del problema Berlusconi, che da punto di forza è diventato nei sondaggi, nelle opinioni, nella difficoltà crescente del governo di essere operativo, si vede perché è diventato così, di fronte a questo, chi pensa che sia un problema anche nei confronti della vostra base, della crescita che c'era nel nord e così via? Pensa che sia inventato questo fattore che bisogna comunque anteporre quello che ci ha appena detto, la realizzazione del programma fino alla fine della legislatura piuttosto, e che sia quindi un puro elemento di polemica politica richiamarvi a delle risposte su questo punto di fronte a Berlusconi, alla sua crisi, alla giustizia che blocca tutto, la Lega che fa e che dice? Allora, la crisi dell'azione di governo non deriva, almeno secondo me, da un indebolimento di Berlusconi, dai processi o altro, anche se i processi sono appena cominciati, questi ultimi ovviamente, quegli altri non è mai stato condannato e questo è un fatto positivo. Io ricordo che il vero colpo all'azione di governo è stato dato da Fini e da quelli che hanno, tradendo il mandato dato dagli elettori, hanno abbandonato la coalizione di governo. È da lì che è nato tutto, è da lì che poi Berlusconi si è un po' dovuto arrabattare a cercare di trovare in Parlamento i numeri per avere la maggioranza, perché in democrazia si governa con la maggioranza, non siamo dei Gheddafi o dei Ben Ali. E quindi a questo punto, se Fini non avesse fatto quell'azione di mollare il governo, di mollare la coalizione in cui era stato eletto, i problemi non ci sarebbero stati. Quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione che è quella che è stata possibile e secondo me è la migliore, non è certamente quella ideale, però si stati costretti, ripeto, da un'azione che non è intesa né da Berlusconi né da Boss. Bene, De Marco, che impressione ha sulla prosecuzione del rapporto all'interno del centrodestra? Dovesse dire a oggi, fare una prognosi, quanto dura ancora l'attuale situazione e la Lega resta con la spina attaccata o staccata, che ci direbbe, direttore De Marco? Io penso che il ragionamento di Speroni è chiaro. Non vedo come potrebbero fare altre riforme se non con Berlusconi, quindi il legame tra Lega e Berlusconi lo vedo molto, molto saldo. E tutto il resto che è precario, esattamente quello che diceva lei, cioè la tenuta di Berlusconi, la sua capacità proprio di proporsi come leader autorevole, sì, risolve le crisi, anche quelle di Lampedusa in sostanza l'ha risolta, non subito, ma l'ha risolta, come quelle dell'immondizia, spesso però a Napoli, però spesso queste emergenze si ripropongono. Berlusconi ha davanti a sé un quadro molto complicato, i processi, l'opinione pubblica molto sconcertata. Ecco, io sono più preoccupato dal fronte berlusconiano, insomma, che dal fronte leghista. Eh sì, io devo dire che quando ho visto il Presidente della Repubblica attivare consultazioni con i capigruppo, mi è sembrato che qualche cosa di ulteriore si fosse messo in moto. Secchi, secondo te si regge comunque? Tu hai fatto capire di sì, probabilmente, però... Ma guarda, Oscar, dal punto di vista parlamentare, sì, noi di sorprese ne avremo poche. Ma dal punto di vista dell'operatività politica? Dal punto di vista dell'operatività, purtroppo per noi ne avremo anche meno, nel senso che... La spinta riformatrice è finita, diciamolo pure. Purtroppo questo noi dobbiamo dircelo. Siamo le frustate, liberali, tutte le cose che persone serie. Le frustate all'economia. Sì, sì. Ma frustate all'economia è impossibile farla, perché è l'economia che fa l'economia, appunto. Non i governi. No, ma poi quando si legge che naturalmente l'effetto del bravissimo Tremonti a tenere il piede sul freno della spesa e a accelerare le entrate, e che il totale delle entrate è andato al 46% del PIL, c'è poco da dire. Comunque, in tutto questo, il processo finisce oggi alla Lega. Diciamo, alcuni, molti mi hanno mandato sms da casa dicendo: hai sbagliato gli interlocutori, troppo morbidi sia De Marco che Secchi, è stato solo un inno alla Lega. No, io ho scelto gli interlocutori del centro-sud e non dei giornali di sinistra, questo è ovvio, perché quello che mi interessava era una riflessione intorno alla durezza del giudizio legale della Loggia, che resta e che rispetto, ma di fronte al fatto che, come vedete, i più dei problemi del governo stanno altrove oramai, e questo, io di questo ne sono convinto, e ho fatto la trasmissione in coerenza a questo, non posso nascondermi dietro un dito. Ringrazio Francesco Speroni, Marco De Marchi e Mario Secchi. Nel frattempo però attenzione, che c'è una parte del governo che se non si dà non poco da fare. Domani la riunione con tutti i vertici bancari per la ricapitalizzazione delle banche, che Banca d'Italia e Tesoro insieme stanno imponendo. Quella è una svolta vera dell'economia. Pochi ne parlano perché è un tema tecnico, però imporre alle banche italiane di ricapitalizzare, come è giusto, perché stiamo andando a una divisione europea di qui a giugno, con giugno al Consiglio europeo, il tema di quale candidato scegliere per il post Trichet, quella sì che è politica, ed è la politica sulla più grande crisi aperta in Europa, quella dell'eurodebito. Ci se ne occupa poco in prima pagina, ma anche questo è il senso di un paese disattento e di classi dirigenti che lasciano pochi responsabili e abili, come in questo caso Tremonti, che dopo tanti anni di polemica con Draghi invece coopera con la Banca d'Italia, ciò che invece nelle prime pagine non c'è. E nelle prime pagine toni alzati, toni terribili, e naturalmente oggi giornata della democrazia, tutti in piazza contro Berlusconi. Sì, però poi le scelte politiche sono altrove. Grazie, buona giornata, Rina Giovane Radio.